Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di collesto, fanti di là, mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Chi chi chi, co co co, cucuru curu curu curu qua qua. Chi chi chi, co co co, cucuru curu curu curu qua qua. Con tanti galli che cantano. Chi chi chi chi chi chi. Troppe galline rispondono, co, co, co, co, co, co. E se i piccioni spariscono, cu, cu, cu, cu, cu. Tutte le papere piangono. Siamo qui, la zanzara, caro Parenzo. Questa era dedicata a Kim Jong-il. 800240024. Beh, il caro leader. Perché vuoi parlare della Corea del Nord? È il signore di Pyongyang, il criminale di Pyongyang. C'è un tizio, leader dei comunisti sinistra popolare, il nostro amico Marco Rizzo. Sì. Ah, nostro no. Amico Marco Rizzo, sì. Che esprime condoglianze. No, ci credo. Il segretario del partito Marco Rizzo e il responsabile esteri Alfonso Galdi, sì, hanno espresso dolore e presentato le proprie condoglianze al popolo nordcoreano. Ma come? Per la morte di Kim Jong-il. Lei sta scherzando, dai notizie vere, direttore. Bene, guida della causa rivoluzionaria dell'ideologia Yuk e del partito, dell'esercito e del popolo della Repubblica Democratica Popolare di Corea. No. Signor Rizzo, sì. Signor qua, Rizzo. Qua, chi, chi, chi. Festeggiamo tutti la morte del grande dittatore della Corea del Nord. Tu, ragazzo mio, vedi un'aquila lassù, tu vai con le gambe. Torniamo alle cose nostre. A proposito di comunismi, sentite quello che ha detto Alessandro Mussolini questa mattina ad Agorà. È un governo. Alessandro Mussolini ogni tanto parte per la tangente, un governo cubano. Perché un governo cubano? Fidel Passera. Senti. Non è vero. Sì, sì. Guardate, questo è un governo di cubani. Questi sono tecnici, di cubani? Sì, sono tecnici cubani. Cubani. Sono riusciti a tartassare gli italiani. No. Chi è Castro? Dice Sechi e Monti. Ma Castro non c'è, perché Monti non ha neanche questa personalità. Lo non, vedo più non ha la Passera. Non ha la Passera lo vedo più Fidel. Fidel Passera. Fidel. Passera, Passera. Fidel Passera. Allora una manovra iniqua. Fidel Passera, secondo me. Perché Fidel Passera? Ogni tanto la Mussolini. Forse perché questa idea del governo nominato della dittatura. Pochi minuti fa il presidente della Repubblica Napolitano ha detto che era meglio non andare a votare. Dovevo assolutamente evitare che si andasse a votare. Sì, alziamoci i piedi quando c'è una dichiarazione di Napolitano. Ma in questo caso veramente non sono d'accordo. Ma in ogni caso, a proposito di sparate, Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista, politiche così, e si riferisce evidentemente alla proposta della Fornero di intervenire sul mercato del lavoro, portarono a Hitler. No. Sì, sì. Questa roba qua distruggerà il paese. Ora mi chiedo, poteva Monti. Ma salverà i suoi nipoti. No, sì. I miei, no, salverà i suoi nipoti. No, guardi, politiche così in Europa sono state fatte una volta sola, nel 30, 31, 32 in Germania, prima dell'avvento di Hitler. Con politiche così dementi hanno prodotto 5 milioni di disoccupati in Germania e Hitler ha vinto le elezioni nel gennaio del 33. Ambulanza subito negli studi di Porta a Porta, subito ambulanza. Ambulanza per Ferrero, ambulanza per Ferrero, per il signor Ferrero. No, senti un'altra sparata a proposito della Lega. Sì. Umberto Eco, se esiste la Lega può esistere anche Casseri, che è quello che ha sparato ai senegalesi. Va. La comparazione tra la Lega e Casseri, quello di Casa Pound. Ed è però un intellettuale lui. Ma quale intellettuale? Intellettuale. Ogni posizione politica crea poi i propri folli marginali. Se in Italia esiste la Lega, poteva esistere anche Casseri. Perché con tanti galli che cantano non si fa mai. Ciao. Oddio mio, Dio mio, Dio mio, Dio mio. Beh, però forse voleva dire che ci sono alcuni partiti che, incitando in qualche modo alla diversità, alla violenza, se tu dici che prendi i negri a calci del sedere, sai. No, ho capito, ma sai, come si fa a, sai, a, quando dici sai, a fare un paragone tra un pazzo scriteriato che dubbio. Si è anche suicidato e un movimento politico che magari paragone è folle. È criticabile per molti aspetti. Va bene. Ci vuole sobrietà, ci vuole un linguaggio molti diverso. Sostengono che toccare l'articolo 18 significa rendere il paese incivile, tant'è che la Camusso, la mia amica Camusso, Susanna Camusso, sì. Sì, che è il leader della CGIL, dice che l'articolo 18 è una norma di civiltà, lasciando intendere che se si tocca l'articolo 18 insomma siamo nella barbarie, siamo nell'inciviltà, non si toccano diritti fondamentali, è come se paesi che non conoscono l'articolo 18 fossero paesi incivili. Cioè, che paesi in cui magari è più facile licenziare, sottinteso, sono paesi incivili. Non è così. Io guardi, Cruciani, non sto con Bernabé. Io sto con Bernabé e non solo perché lavoro alla 7. Lo saluto, signor Bernabé, ora lo ringrazio. Perché? Signor Bernabé, presidente di Telecom, oggi ha detto che la riforma dell'articolo 18, così da sola, non è una priorità. Vabbè, io sto sempre con la Telecom, sempre con Bernabé, sempre con Radio 24. Camusso, grazie, Marcegaglia. Grazie, Confindustria. Camusso. L'articolo 18 è una fondamentale norma di civiltà, oltre che una fondamentale norma deterrente, come tale è evidente che non si può cancellare, e peraltro nessuna teoria economica riuscirà a convincerci che licenziare di più favorisca la crescita. Vabbè. Secondo altri si vuole indebolire il sindacato, eccetera, eccetera. Bernabé, tema fuori tempo. Basta, ma chi se ne frega? Questo ha detto Bernabé. Ma non me ne e frega non è niente. Il presidente della Corea. Non me ne frega nulla, non me ne frega assolutamente niente. Castelli, IMU, stesso nome, tasse diverse. Ah, Castelli della Lega, sentiamo questa cosa dell'IMU, va. No, sull'IMU occorre precisare una cosa. Diabolicamente hanno chiamato IMU una tassa che non ha nulla a che vedere con la tassa che aveva fatto Calderoli, e l'hanno chiamata con lo stesso nome. E adesso Berlusconi ha buon gioco a dire: ma è strano, la stessa tassa che avevano messo loro, ma l'hanno chiamata con lo stesso nome due tasse diverse. La tassa sulla casa, se uno c'ha la tassa della casa abusiva, secondo lei paga. È vero che nella proposta dell'IMU, quella della federalista della Lega, non c'era la tassa sulla prima casa. Va bene. Parole dure di Napolitano anche sulla secessione, la predicazione secessionista vana e artificiosa. 800 24 00 24, andiamo a sentire Giuseppe da Milano, buonasera. Sì, buonasera, tanto complimenti per la trasmissione, grazie per l'opportunità che mi state dando. Io mi riferivo a delle telefonate che ho sentito praticamente ieri durante la trasmissione, e volevo capire se praticamente quello che avevo sentito io, insomma, se avevo capito male io o se in effetti avevo sentito la cosa giusta, ecco. A proposito di che, scusi? Mi pare avesse chiamato Giuseppe, però ci dica quello che vuole dire, e senza giri di parole, ricordi a quello che ha detto ieri. Io dimentico tutto, per cui oggi dica la sua opinione sul fatto del giorno, altrimenti sono a nulla da dire. La ringrazio, l'abbraccio forte, arrivederci a domani. Cosa vuole che le dica? Mi ha fatto arrabbiare subito il direttore. Non mi faccia arrabbiare, sono subito. Le 18:43, dobbiamo arrivare fino alle 21, abbia pazienza. Non si arrabbi. No, non mi arrabbio, però dica quello che ha detto. Lei voleva dire rispetto alle sessioni di ieri che quello che aveva detto, no, è chiaro. Io ho capito. Io mi riferivo ad una telefonata che avevo. Non lo so, l'abbiamo dimenticata. Noi resettiamo tutto. Giuseppe, esprima la sua opinione, abbia pazienza. È come quando vai in gabinetto, tira l'acqua, basta, è finito, poi c'è la prossima volta. Io volevo capire se praticamente le opinioni che erano state dette da Parenzo ieri durante quella telefonata fossero delle opinioni, diciamo, sensate oppure no. Ma che dice? Ma lo rivolge, lo dice a Parenzo. Ma Parenzo le dirà opinioni? Sì, erano opinioni sensate. Quali? Opinioni a proposito di che? Le opinioni a proposito praticamente di questo, mi pare, noleggiatore o tassista che aveva chiamato e aveva detto che praticamente temeva la liberalizzazione del servizio. Il signor Parenzo aveva praticamente detto che lui sosteneva che avrebbero dovuto essere risarciti. Ho detto che sono a favore delle liberazioni delle licenze, a fronte, certo, di indennizzare il povero tassista che ha pagato 200.000 euro una roba e che è il suo TFR, certo, e quindi lo Stato non se ne può fottere di questo, va liberalizzato, perfetto, il mercato, fine, questo chiaro, è mercato. Chiaro, io adesso quello che volevo capire da lei, dottore, mi scusi, ma lei ha fatto due conti in merito, cioè ma no, sarebbe ma in grado non, di... Non fa, ma, scusi, i conti, sarebbe conti. In grado di... Sarebbe in grado di quantificare l'entità di questi ricorsi. Ma cosa vuol dire, Giuseppe, i conti? Perché i conti? Perché vuole da noi sapere i conti? Che conti? È una cosa. Voglio sapere i conti perché le spiego il perché. Perché se nella trasmissione precedente lei aveva detto che sarebbe stata una intervento a impatto zero e poi parla di un indennizzo di 200.000 euro pro licenza. Ma no, ma non è questo il ragionamento. Mi scusi, mi faccia finire. Un indennizzo pari a 12 miliardi di euro sul totale non è più un intervento. Scusi, lei sta parlando con, d'accordo con me. Lei sta parlando con l'auricolare? Sì, vuole che mi fermi? No, no, non solo volevo che lei si fermasse, volevo anche che non parlasse con l'auricolare, ma non gliel'hanno detto evidentemente. La ringrazio, non siamo in grado di fare indennizi, parliamo per principi generali. Ogni tanto scendiamo nel particolare quando conosciamo bene le cose. Giampaolo dalla provincia di Cuneo, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, io faccio riferimento all'affermazione di Tremonti che ho sentito ieri, che proporrebbe di dare due schede, una per la Camera e una per il Senato, ai giovani. E mi sembra una cosa abbastanza astrusa, in quanto al limite, visto che tanto si vuole svecchiare un pochino, visto che pensiamo ai giovani, svecchiare un attimo il Parlamento, visto che la legge prevede che per il Senato si può candidare soltanto persone al di sopra dei 40 anni. Lei cosa propone? Scusi, andiamo al sodo. Direi di mettere che alla Camera si possono candidare soltanto persone al di sotto dei 40 anni, avremo un governo. Mi pare una stupidaggine, se non addirittura una stronzata, cioè il fatto che si possono candidare solo persone sotto i 40 anni. Se l'è tirata però un po'. Giampaolo, eh? La ringrazio. Eccoci, 18:48, 800 24 00 24. Dove andiamo? Dove? Un attimo solo. Pronto? Troppe galline rispondono. Numero a sorpresa. Le intemerate di Cruciani, Un numero a sorpresa. Un telefono che squilla. Pronto? Sì, Enrico Vaime? Sì. Buonasera, salve Cruciani, la Zanzara, come stai? Parenzo, salve Vaime. Come dice? Sì, sono Cruciani e con Parenzo, buonasera. Buonasera. La Zanzara. Dico, come sta, come sta? Come sto? Bene. Lotta come un leone, quindi. Lotta. Ma mi spieghi? No, io veramente non lotto con nessuno, tant'è vero che ho denunciato, ho querelato. Come? Chi si è permesso di attribuirmi in quella forma questo libro, quindi. Addirittura. Ah, quel pensiero contro il signor Mentana, grande direttore. Sì, ma che c'entra Mentana? Mentana non c'entra niente, è pieno di scempiaggini questo libro, è una cosa, una mascalzonata. Ma di chi? Cioè lei non ha, scusi, ricostruiamo per chi ci ascolta. Vai, scusi, attimo, lei non ha mai pronunciato quelle parole? Quelle parole no, di sicuro. Cioè No, con quella forma, con quella sostanza neanche. Non, chi mi conosce sa che non parlo in questo modo. Cioè no, io ho letto alcuni stralci, no, riportati dai siti, dai giornali. Ma non è così però. Cioè, scusi un attimo, lui secondo quelle frasi lei avrebbe detto: lui fa molto bene il telegiornale, Mentana e basta, perché il telegiornale è fatto molto bene. Ma è una stupidaggine, non è quando vero, lui esce dal contenuto del telegiornale fa dei danni, non è mai detta una cosa del genere. Ma non credo, ma poi soprattutto non la penso. Non perché dovrebbe. Che senso ha? Cioè, appunto, quello che ci chiediamo anche noi, signor Vaime. Appunto, vede, poi addirittura quindi, un cialtrone, un ignorante, non ha studiato, carità, non c'è un cazzo da fare. Non è mia abitudine parlare in questo modo degli altri, uno può polemizzare. Quindi lei chiede, io dico, caro Enrico, ti chiedo scusa, hanno scritto delle stronzate. Sì, ma io ci ho già parlato con Enrico. Però è bello dire, cioè, apertis verbis, caro Enrico. Ma lo dico senza minimamente, senza nessun fremito nella voce. Mi hanno attribuito delle cose che non ho mai detto né pensato. Mi dispiace molto che sia successa questa cosa. Vedremo di rimediare. Con le vie legali che dobbiamo fare. Scusi un attimo, Vaime. C'è questo libro intervista che si chiama A sinistra nella foto, no? Sì. Pubblicato da Liberti, realizzato da un tale che si chiama Luca Sommi. Lei lo conosce? Sì, evidentemente. No, non l'avevo mai visto. Mai visto. Ma lei ci ha parlato con questo Sommi? Sì, ma Luca Sommi è molto corretto. Infatti ha detto: allora ti facciamo avere le bozze. Non sono state mandate le bozze e hanno pubblicato una cosa estemporanea che non era destinata a questo uso. Assolutamente, cioè, no. In che senso una cosa estemporanea non destinata a questo uso? Scusi, ma le pare che io ho bisogno di avere un registratore, di una persona per dire delle cose? Cioè, a parte che metà delle cose riportate, diciamo quelle più leggere, più accettabili, sono tratte dai miei libri pubblicati da Liberti. Vabbè, non ho capito. C'è questo Luca Sommi che sta facendo un libro su Vaime, giusto? Su Vaime, e che le avrebbe attribuito delle parole che lei non ha mai pronunciato su Mentana, è così? È così, ma non solo su Mentana, mi ha senza la mia autorizzazione hanno pubblicato una cosa attribuendomela. Voglio dire, questa è una cosa al di là della legge. Al di no, fuori adesso della legge. Questo certamente, se fosse così, non c'è dubbio. Così è gravissimo. È una cosa certo gravissima. Così. Dovete allora chiamare subito il professor Carlo Taormina. Possibile mai, Enrico Vaime, che le hanno attribuito queste parole così precise? C'è un cialtrone, un ignorante riferito a Mentana? Ma perché sono dei mascalzoni, ma perché sono in questo clima di follia e di mascalzonaggine, evidentemente. No, non ho mai, ma che interesse avrei a fare un discorso? No, magari sa, uno magari si può lasciare scappare delle considerazioni. Non l'ho fatto, quindi non cioè, per cui questo Luca Sommi è un mascalzone, lei dice? No, un mascalzone a Liberti, perché Luca Sommi ha detto fategli avere le bozze che io avevo chiesto. Quindi no, il mascalzone vero è l'editore, e con lui me la prenderò fino alla morte. Perché l'editore, non quello che, per quello che ha scritto la cosa? Ma qualcuno aveva scritto queste cose? Ma perché non ha scritto? Perché non è vero, perché l'editore ha preso questa iniziativa, è lui che ha fatto questo libro. Ma l'editore l'avrà presa? Ma gli avrà preso delle bozze, no? C'è qualcosa che ha letto delle cose l'editore, no? Ma chi? L'editore si è basato su quello che gli ha portato il signor Luca Sommi. Ma l'editore, a parte che l'editore era presente, quindi tra l'altro non c'entra niente. E poi ma si fa un'operazione del genere? Scusate, io non so, forse vengo da un altro mondo, ma no, si fanno leggere delle bozze, certamente. Vedi un po', si fa un contratto, si firma un accordo, tutto questo non viene cancellato perché in nome di una verità, che verità quale? Detta da chi? Però scusi, vai, sembra un po' credere. Strano il fatto che uno si sia totalmente inventato delle frasi che lei ha pronunciato. Ma non totalmente, hanno completamente distorto, totalmente. Che significato ha? Perché deve stravolgere il senso di questo discorso che stiamo facendo? Cioè, perché stravolge, dice lei? Scusi. Perché non ho detto quelle cose, non ho detto in quel modo, e soprattutto non avevo nessuna intenzione di fare questa cosa qui. Cioè, lei dunque ha detto che, diciamo, Mentana sa fare il telegiornale e non sa fare altre cose, no, per esempio? No, non l'ho detto assolutamente, ma siamo impazziti. Vabbè, allora, le parole su Mentana sono totalmente che è un ignorante nemmeno. Ma figurati, ma non è da me un ignorante. Ma allora è veramente una vicenda incredibile, però. Infatti è talmente incredibile che partirà la denuncia, la querela e la richiesta. Forse varrebbe nei confronti di Aliberti, dice lei, no? Certamente. Però Aliberti, veramente non capisco, cioè, Aliberti avrà, scusi se insisto, ma avrà pubblicato, cioè, gli saranno arrivate delle carte, non è che Aliberti scrive il libro. No, non è arrivato, se le prese. Ma qualcuno l'avrà scritta di suo pugno quelle carte? Ah, l'ha scritta il giornalista che firma poi questa operazione. È il signor Sommi. Signor Sommi. Non è la... Sommi non ha scritto, io non, ma chi l'ha non scritto credo, non è possibile. E chi l'ha scritto questo libro? Ma nessuno, non io certamente, sono cose, a parte che sono state prese dei brani di libri pubblicati. Vicenda pazzesca, guarda, mi dispiace per Vaia perché lo conosco, una vicenda incredibile, è finito in una vicenda pazzesca proprio. Sì, infatti, è una mascalzonata. Una mascalzonata. No, diciamo pure ordita da chi lei? Principalmente della... adesso voglio dire ordita, per fare rumore, per vendere una cosa di nessun valore, un cialtrone, quale questo editore. Editore che con il quale io mi muoverò per via legale. No. Perché sedicente? Scusi, è un editore con giudizio. No, voglio dire, perché da uno che pubblica una cosa senza autorizzazione, senza farti un contratto, senza farti delle volte, non è un cialtrone, è un gentiluomo. Addirittura. È un bravo professionista. Mi vuol dire questo? No, ma io non lo so. Assolutamente. Però, però io lo conosco, a me non sembra che sia così. Cioè, l'abbiamo anche a me sembrava. E allora, che significa? Io giudico un'azione, non... No, la persona, certo. Certo. Un abbraccio, comunque, importante, che ha fatto pace con Enrico Mentana, questo è importante. Ci sentiamo dopo. Mamma mia. Bene, bene, caro Parenzo, 800 24 00 24. Dramma Parenzo. Che è successo? Dramma che è successo? Che è successo? Perché dramma Parenzo? Vabbè, comunque, a proposito delle dichiarazioni fatte, non mi rispondono al telefono questa mezz'ora che sto chiamando. Andiamo avanti, dai. A proposito delle dichiarazioni fatte, tu dici vabbè, perché tanto tu vabbè, adesso gli ascoltatori risolvi mandando il traffico da tutta Italia, comunque, non sanno niente di queste due paturnie, scusa, cioè non rispondono al telefono. Vabbè, d'accordo, comunque posso dire a chi ascolta questa trasmissione che ascolta. No, la gente non è interessata, alle tue paturnie quotidiane. Comunque, in ogni caso, a proposito delle dichiarazioni fatte pochi conquista antifala da Zanzara, dal signor Enrico Vaime, leggiamo una replica da parte dell'editore. Allora, ci scrivono Aliberti, editore che noi peraltro conosciamo, io anche tu hai pure detto prima, io conosco l'editore Aliberti, non posso credere che pubblichi delle cose senza averle verificate. Persona molto per bene. Vabbè, comunque, e comunque scrivono, leggi, mi scrivono: tu, tu, cari Parenzo e Cruciani, sono l'editore Aliberti. Vai avanti tu. Dopo 5 libri insieme, sono sorpreso e amareggiato per l'atteggiamento di Vaime. Tengo a precisare che sono in possesso della videoregistrazione, questa è importante, dell'intervista rilasciata da Vaime a Luca Sommi, e che il libro pubblicato ne è la trascrizione fedelissima. Cordialità, Francesco Aliberti. Caro Vaime, sta scoppiando casino, amico mio. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Napolitano, dovevo evitare le urne in una crisi gravissima, ha sbagliato dire che la democrazia è sospesa, confronto senza pregiudiziali e battute sprezzanti. Ancora polemica governo sindacati, Bonanni, salari troppo bassi, la Fornero, è vero, bisogna aumentarli, ma anche riformare il mercato del lavoro. Berlusconi, democrazia sospesa, espressione colorita, ma l'anomalia rimane, la Lega alle dimissioni del governo sollecitate dai poteri forti. Fini, il governo Monti non è un fallimento della politica, le proteste rientreranno, la manovra domani in aula al Senato, scontata la fiducia. Alla TG3 la moglie dell'imprenditore padovano suicida, era un lavoratore pulito messo in crisi dai crediti che non riusciva a riscuotere. Su un sito neonazista preoccupante blacklist di magistrati, politici e giornalisti che si sono occupati di immigrazione prima e dopo la strage dei senegalesi. Scommesse giocate a Singapore, vincite incassate a Napoli, in odore di camorra, in un'organizzazione planetaria, gli arrestati delle inchieste sul calcio. Bene, inutile dire, caro Parenzo, da che parte sto io, no? Sulla vicenda, certo, del calcio, lei no, dice? No, della vicenda Fornero versus tutto il mondo sindacale, una parte della politica, la sinistra del Partito Democratico, forse fa troppe interviste, forse si concede troppo a microfoni and quotidiani, però. Forza Fornero, forza Fornero, cosa ha fatto di partito? Avanti Fornero, avanti Fornero. Ah, perché adesso l'articolo 18 risolve i problemi tutto, del lavoro. Tutto, cancellare tutto, anche l'articolo 18, allora, via, risolve via, i problemi via, del lavoro. Cancellare. Io sto con Bernabé. Ma cosa c'entra Bernabé? Bernabé è un attore, presidente in di Telecom, ha detto che ma il tema hai un conflitto di interessi? Hai un conflitto di interessi? Sì, però a Bernabé, avanti tutto Bernabé. Ma cosa c'entra? Ma perché? Ha detto, ha espresso un semplice parere. Ha detto una cosa fondamentale, no, parere, sì. È un parere che, dove ho dice capito, Bernabé, ma si tratta di un tema non prioritario, anche perché questo strumento esiste in tutte le relazioni industriali del mondo. Per forza fine, chiusa la discussione. Vuoi fare questo, la tua solita marchetta? Emiliano, no, da Torino, ma buonasera che... signore Emiliano. Buonasera Cruciani, buonasera. Dica signore Emiliano. Ciao Emi. Dunque, io chiamavo per fare una riflessione e mi chiedevo il motivo per il quale in questo paese non c'è un'impossibilità cronica di fare delle riforme, soprattutto degli ordini professionali. Io parlo in prima persona perché sono un dottorino, cosiddetto mini avvocato con patrocinio. E non so se sapete voi una cosa. Pronto? La sento bene, Emiliano, vada. No, che i dottori con patrocinio, il patrocinio viene concesso per un periodo limitato di tempo con la scusa che i dottori si devono formare. Sì. Poi viene tolto. Emiliano, però vada al sodo, qui non dobbiamo fare la disamina del tirocinio. Però ha ragione, In Italia ci sono delle categorie che sono la manovalanza gratuita a vita, dopo 6 anni se uno non passa un esame, che è una farsa soprattutto al nord, rimane a casa, chiude partita IVA, non può più fare nulla e rimane a piedi. Vabbè, allora? No, dico, perché non c'è una volontà di riformare in questo senso gli ordini professionali? Ma guardi, la materia è molto complessa, però Emiliano, guardi, la materia è molto complessa, fosse per me, per quello che penso io, via tutto. Sì. Una piccola cosa di abilitazione, proprio leggera, cioè, ma non nemmeno, c'è cioè un ma quando sì, no, ma anche perché insomma, se c'è il problema della responsabilità, c'è il problema, naturalmente bisogna essere laureati, eccetera. Solo l'ordine dei medici ha un senso, solo l'ordine. Tutto il resto medici è deciso dal mercato, cioè se io sono laureato in giurisprudenza e voglio fare l'avvocato, certo, sarà il responsabile possibilità di uno studio di avvocati mettermi a lavorare o no? Ma cioè, anche perché ora, ma di che parli? Il paradosso cliente, è che no, uno, poi, il cliente decide. Ora il paradosso è che uno deve andare 2 anni lì a fare il patrocinio pagato zero, pagato ovo, pagato zero. Può fare l'esame. Ma che minchiata è? Ma di che parliamo? Di cosa parliamo? Su Emiliano, grazie, grazie. No, dico, ma i primi sono gli avvocati. Ragione. Il problema è che il mercato decide ma, e ti tolgono la possibilità di farlo. Perché? Qui ancora parliamo di tariffe minime, ma sono cose basilari che non dovrebbero nemmeno esistere. La pubblicità. Ma non si può ancora. Perché la pubblicità comparativa non si può fare. Cioè, io non posso immaginatevi l'avvocato Taormina, la pubblicità comparativa come la farebbe il professor Carlo Taormina. Sono io il migliore, ma è chiaro! Poi ci sarebbe l'avvocato Pecorella, ci sarebbe l'avvocato Ghedini, sarebbe meraviglioso. Invece non si può fare la pubblicità comparativa perché. Ma no, la pubblicità è tout court, no? Non solo quella perché? Comparativa. Domenico da Milano. Buonasera. Chi è Domenico Scilipotti? No, Domenico da Milano, un ascoltatore. Domenico? Sì, è cambiato il vento, la Juve si vede, si dà dello stadio. Che sta dicendo lei, scusi, Domenico? Sta parlando in libertà, che sta dicendo? Domenico, siamo in diretta. Pronto, Domenico? Ma andiamolo tutto in diretta. Un grande allenatore. Ma chi? Domenico, ma chi? Un grande allenatore, di che sta parlando? Dome? Mimmo? È in diretta. Mimmo? Ma come speriamo bene? Ma con chi parla? È in diretta, Mimmo. Domenico? Mimmo? Domenico? Ma guarda te se deve fare bubù questo alla radio. Domenico? Mimmo? Signor Domenico, pardon. Pardon, scusi se la interrompiamo. Scusi se si sta bloccando. Roberto da Cuneo. Consentirmi l'intervento. Allora, due pilastri fondamentali di una... paese che funziona sono la giustizia, l'istruzione e la cultura. In Italia si fa finta di lavorare e l'articolo 18 costringe a zavorrare moltissime aziende impossibilitate ad alleggerirsi di gente che per tanti anni ha buggerato tutti. La soppressione dell'articolo 18, a mio avviso, alleggerendo le aziende e consentendo loro di attrezzarsi di elementi validi, consentirebbe anche il rilancio di queste aziende con delle assunzioni di gente capace, e in questo modo il paese potrebbe risollevarsi. Finché vogliamo portare al traino le zavorre, i fancazzisti, gli assenteisti impuniti da oramai 30 anni bene, in questo paese, sì, non potremo sperare di migliorarci. Bene, grazie Roberto. Mimmo c'è? Mimmo? Domenico da Milano. Ma dov'è? Domenico, ma che fine ha fatto questo Domenico da Milano? Frullatore, dov'è? Vabbè, Rosario da Roma, buonasera. Rosario? Sono Rosario. Come, scusi? Mi chiamo Rosario, buonasera. Rosario, questo abbiamo detto, Rosario da Roma, sì. Mi scusi, desidererei fare una brevissima premessa di complimenti perché io la seguo da tanto tempo. Benissimo, vada al sodo. Ecco. Niente, non so se esco fuori tema, comunque mi è venuto questo. Ieri sera ho appreso, io e mia moglie a casa con i miei figli, dal ministro ammiraglio Di Paola, che il ministero della difesa ha acquistato, ma perché l'ha detto la Lilli Gruber, delle Maserati. Ma questo non è una cosa nuova, vecchia, non è una cosa nuova, vecchia roba. Vecchio l'acido della Russia. Abbiamo saputo dire. Vabbè, ma io le vorrei dire, caro dottor, come si chiama, Cruciani, lei? Sì, beh, fino sì, a prova, questa fino è la trasmissione di Cruciani. Fino a prova contraria, sì. Dove pensava di aver chiamato, amico mio? In quale trasmissione? Comunque. Non ho capito. No, per carità. Vada. Comunque lei mette un po' di suggestione anche a volerla chiamare e ad avere la fortuna di poter prendere la linea. Lei ha una fretta così, difatti poc'anzi a un suo radioascoltatore l'ha liquidato dicendo mi faccia perdere tempo, la prego per favore. Io semplicemente volevo dire perché questi signori politici, come se sono degli dèi che si sono inchiodati su quegli scanni a Montecitorio, al Senato, sanno chiedere solo ed esclusivamente i sacrifici. No, io sono un medico pensionato e prendo una misera pensione. Cosa hanno apportato alla società, all'umanità? All'umanità quando noi abbiamo diversi limitiamoci all'Italia. Mi lasci finire Crociani. Scusi. Pronto? Sì, la sento. Io non ce l'ho con lei, ce l'ho con la rabbia, perché sciacquano nell'oro, si possono fare il bagno, perché prendono svariate migliaia di euro al mese, con aerei gratis. Sì, tutto a posto, eh? Come? Tutto a posto, tutto regolare lì a Roma? A Roma in che senso? Arrivando una macchina con sopra una luce. No, perché sta arrivando, come lei sente in sottofondo, una macchina con dentro quattro persone vestite di bianco e sopra un lampeggiante blu. Destinazione ospedale. Ho capito. Lei dove si trova esattamente? In che quartiere è a Roma? Sì. Io dove sono? Sì. Ma sta parlando con me o con qualche altro interlocutore? No, con lei. Allora le dico la verità, io parlo da Aprilia, provincia di Latina, siccome... Benissimo. Bene. Succursale, ma cosa mi vuole intendere? No, volevamo sapere l'indirizzo esatto per poter dare le coordinate a quei signori in camice bianco. Ha capito. Comunque... Mi scusi, volevo darle l'impressione. No, per carità, ma basta solo un controllo rapidissimo. No, si è bagnato il dito nel latte con me. In che senso? Mi ha sentito, io non è che sono fuori di mente, io sono incazzatissimo. No, perché? No, si capisce che è arrabbiato. Abbiamo però magari un controllo rapido, molto rapido. Lo so che è arrabbiato, appunto per questo, per far sbollire la rabbia, ci sono questi signori col camice. Sì. Controllo rapido, non so, lascia alla segretaria l'indirizzo. Grazie, un abbraccio. Siamo qui a combattere 800 24 00 24. Beh, voglio farvi ascoltare però, caro Parenzo, quello che ha detto Oliviero Toscani ai nostri microfoni ieri sera a proposito soprattutto della Lega. Un Toscani scatenatissimo. La Lega uguale alla diarrea, che sarà mai? Io quando però questi intellettuali come Toscani, come abbiamo sentito prima anche Umberto Eco, si espongono così tanto, con queste parole così forti nei confronti della Lega, io prendo subito le difese della Lega Nord. Cosa vuoi? Licenza poetica si dovrebbe dire. Oddio, ha scritto un libro come Il nome della rosa, Il pendolo di Foucault, L'isola del giorno prima. E senti, potrei rammentarne tanti di quei testi, di cui non ne ho letto nemmeno uno. Senti questa licenza poetica. La Lega non è un partito, è una diarrea. Ma ragazzi, siamo nel 2012, stiamo parlando d'Europa. Ma io vergogno a raccontare ai miei nipotini che c'è la Lega. Sì, vergogna. Bossi, un vecchio zio rimbecillito. No, chi è? Bossi? Sì, Bossi. Ma vuole mettere la differenza tra un radicale e un leghista? Scusa, Bossi, dai, ma ritorni nella foresta. Devi tornare nella foresta. Comunque, a Bossi non si può che voler bene. È come un vecchio zio rimbecillito, insomma, è chiaro, non si può che volergli bene. Scatenato Olivia Toscani. E però Bossi ha fottuto l'Italia. Bossi, io so che lei è figlio di portinaia, che lei dormiva sempre fino alla luna del pomeriggio. E sua mamma diceva, me fiore Lazarum. È meglio fare il fotografo che un fotografo come lei. Lei è un fotografo con due T. È uno che ha fottuto l'Italia, cazzo. Oliviero Toscani, qui alla Zanzara, la 24. Risata. La risata mefistofelica del suo Toscano. Massimiliano da Como. Buonasera, Cruciale Parenzo. Dica. Buonasera. Io per non rischiare mi sono fermato fianco a un'ambulanza che magari mi serve. Vediamo, verificheremo, non credo. In questo periodo ne mandiamo poche di ambulanze, devo dire la verità. Sì. Ma la maggior parte delle persone che chiamano non ne hanno bisogno, quindi adesso non faccia lo snob pure lei. Bene, comunque no. Dica. Allora, io ho un'idea di impianto istituzionale tutto mio. Allora, l'impianto istituzionale di Massimiliano da Como. Meno male che è vicino all'ambulanza. Non mi conti le parole, Cruciani, non mi conti le parole, dai. Vabbè. Conto come lei. Ma non è come no? In barra di impianto istituzionale è altro che è più che colto. Scendiamo nel dettaglio tecnico. Fatta bravo. Sì. Allora, io mi sono immaginato questo. Radiamo al suolo la Camera dei Deputati. Radiamo al suolo la Camera dei Deputati. Bene, dopo un inizio non c'è male, Massimiliano. All'interno della Camera dei Deputati c'è un sottofondo di tutti i favori, tutte amicizie, tutte cose che si creano all'interno che noi veramente non riusciamo ad arrivare. Vabbè, comunque Radere al suolo allora, non può essere un metodo. Allora, il mio pensiero si fonda, diciamo così, getta le basi su due punti molto importanti, che godono in questo momento di una certa credibilità. Sì, però Massimiliano, non mi faccia l'Angelo Pane Bianco, l'Ernesto Galli della Loggia. Ho pensato due giorni per dire che bisogna andare da solo alla Camera dei Deputati, Massimiliano, abbia pazienza. Ascolti, allora, il Presidente della Repubblica è notoriamente, storicamente, una figura che gode di fiducia degli italiani. Vabbè, allora? Ok, il Senato, tutto sommato, diciamo così, è un'istituzione che gode di fiducia degli italiani, e ci siamo. Ok, poi? Il Presidente della Repubblica non mi pare. Elegge direttamente i senatori. Dio mio, poi? Ma non capisco, beh... Poi? Pronto? Pronto, Massimiliano, meno male che lei ha chiuso qui. Fernando da Cosenza, buonasera. Salve, buonasera, complimenti per la trasmissione, frasi di rito. Sì. Io faccio l'avvocato, ho ascoltato molto simpaticamente le frasi che avete detto contro gli avvocati e contro il sistema delle tariffe. In fondo dico che a me le tariffe non interessano affatto, io faccio il libero professionista, non sono un avvocato di banche, non sono un avvocato di grandi società. Fa l'avvocato però, fa l'avvocato. Faccio l'avvocato. Benissimo. Però attenzione, il processo di liberalizzazione che questo governo ha fatto e che ha cominciato, ahimè, Berlusconi, è un processo di liberalizzazione che va a danno non tanto della categoria, che sicuramente ne è contraccolpi, ma va a danno soprattutto dei diritti dei cittadini. Ma quando mai? Un'analisi seria. Ma nella maniera più assoluta non è così. Per me devi far finire. Okay, ma su che cosa? Su quale punto? Scusi, no, Fernando. No, sul punto dell'accesso alla giustizia deve essere garantito a tutti. Allora, se tu alzi i contributi per poter accedere a difendere una casa fino a 20.000 euro e li alzi fino a 1.000 euro... Sì, ma questo non c'entra niente con la liberalizzazione della professione, Come non c'entra con la liberalizzazione delle professioni? C'entra perché in questa maniera tu stai escludendo dal basso tutta la fascia dei cittadini più deboli. No, ma questo non c'è, io non è vero. Come no? Ma come mai? Ma in nessuna parte del mondo. No, ma avvocato, scusi, lei sta andando su. Lei sta andando su un argomento troppo tecnico. Qui non ci occupiamo. Ci diamo del lei. Bene, allora. No, ci diamo del lei, certo. Sto parlando di un argomento tecnico. Sto parlando di numeri. Cioè, se io devo pagare il mediatore per poter tentare di risolvere la mia questione, se poi devo pagare il giudice per poter tentare di risolvere la mia questione, lo Stato attraverso il contributo, e alla fine dovrò inevitabilmente rivolgermi all'avvocato, io a questa operazione avrò perso questa è una sua ipotesi. Sono i numeri, guardi. Senta, la liberalizzazione sono altre cose, significa maggiore libertà di accesso, secondo me eliminare l'ordine negli esami. Scusi, perché i numeri della liberalizzazione, noi siamo 240.000 in Italia, è una lobby? Ma non lo so, certamente è una lobby importante, perché... Sono numeri di una lobby a fronte di notai che sono 5.000. Vabbè, ma qual è il punto? Scusi, che cos'è che lei contesta? Sono 5.000 in Italia. Cos'è che lei contesta? L'eliminazione delle tariffe minime? Che cosa contesta lei? No, quelle non le contesto affatto. La pubblicità, che cosa contesta? Io contesto la società di capitali, perché quando le banche potranno entrare a fare i soci... noi avremo molti diritti in meno. Lei non dimentichi che negli anni passati, dal 1950 in poi, le banche hanno applicato, per esempio, la questione dell'anatocismo bancario. No, però scusi, Fernando, allora, va benissimo, però non è questa la sede giusta per iniziare a fare un discorso di questo tipo. No, non è questa la sede, però se vogliamo banalizzare il discorso e dire sono tutti quanti dei lobbisti. No, ma chi lo dice? Nessuno l'ha mai sostenuto. Radio 24 da questo punto di vista fa veramente spettacolo, nel senso che ogni giorno in qualsiasi trasmissione, non parlo della sua, ma parlo di moltissime altre trasmissioni, ma non escludo ovviamente Rai 1, che il marito della Giannini che ha fatto le riforme sulla giustizia a braccetto con Alfano, oppure con Bersani, insomma, alla fine... sembra che l'Italia sia costretta tra le maglie dei tassisti che bloccano lo sviluppo, gli avvocati che bloccano lo sviluppo, ma non è così, mentre invece lo sviluppo lo sta stanno favorendo le banche che ci hanno portato alla, alla, alla... Qualcuno mi scrive che la vera liberalizzazione è consentirci di difenderci da soli come in America. Vabbè, insomma, ci sono un sacco di opinioni. Guardi, questo non lo so, perché questa mi sembra la pia illusione. Questa è un'illusione. Beh, vabbè, sarà una pia illusione, no, però se uno lo vuole fare, se uno lo vuole fare dovrebbe avere il diritto di farlo. Guardi, è l'individuo di fronte allo Stato, faccia lei. Se in una società come quella americana, che per me non è una società da prendere a modello, è una società che sta crollando, l'America ha stampato più dollari che tappi di Coca-Cola. Quindi adesso noi stiamo pagando. Vabbè, questo è un altro argomento, però non è che va tutto male, non è che va tutto male, però se no, se vogliamo parlare però delle cose così banali, fare qualche battuta, ci sto pure io. Bene, Fernando, la ringrazio. Nino da Roma, Fernando, buonasera. Fernando, perché ha anche le sue ragioni. Buonasera, dottor Cruciani. Signor Nino, vada. Solo in Italia ci sono gli ordini professionali. Dica. È abbastanza indignato con lei, perché vedo che lei usa sempre due misure. Sia con gli ospiti tipo onorevoli, personaggi un pochettino altolocati, e sia persone che la chiamano per intervenire alla trasmissione. Come poc'anzi quel dottore che ha chiamato da Aprilia, non capisco questa barzelletta di mandare l'autoambulanza. Ma guardi che sono anni che la mandiamo l'ambulanza, se, non, so, lo se so, lei non se n'è accorto mi dispiace. Si chiama divertissement. Si chiama divertismo, espediente narrativo, è un gioco, nessuno si... è un gioco, tutte le volte che... lei sa benissimo che tanta gente telefona perché ha motivo di telefonare, ma certo, ma va benissimo, adesso, anzi questa barzelletta, cioè quel signore ho visto che ci è rimasto molto male, se ne farà una ragione, essere, immagino non può essere sempre d'accordo con la conduzione della trasmissione, anche se lei come si ritiene un dittatore, perché l'ha detto più di una volta che lei comanda la trasmissione, fa quello che vuole, giustamente, però se uno la chiama un minimo di rispetto. Non c'è rispetto per nessuno, non ce n'è per me, non ce n'è per gli altri. Ma come si permette di dire una cosa del, lei, del genere? Io vorrei sapere se qualcuno che parlasse con lei, nel momento che lei parla, gli dicesse e allora... E lo fanno ogni giorno. E quindi, ma che educazione è questa? Ma non c'è l'educazione. Ma come parla di sovrastrutture? Lei l'educazione. Qui è un'arena. Con alcuni ci si comporta in un certo modo, a seconda dell'istinto di come viene. È un'arena, questa qua. È un'arena, è un'agorà. Si discute anche animatamente. Non necessariamente ci vogliono le buone maniere, caro Nino. Le usiamo e qualche volta non le usiamo. Ecco. È così. Se le piace così, bene. Altrimenti. Ma non mi piace così. Allora, la prossima telefonata. Allora, visto che saremo in un'arena, mi comporterò come un gladiatore e lei sarà... Ma lei non è nella sua natura, evidentemente, comportarsi da gladiatore. Lei ha espresso una sua opinione, io non l'ho mandata a quel paese, ha espresso la sua opinione tranquillamente, lo vede che è già una telefonata diversa da quella precedente. È così, cioè, ci sono toni ogni tanto alti, ogni tanto bassi, a seconda delle situazioni. Comunque lei adesso, per curiosità, se avrà tempo, si risenta la telefonata di quel signore, quel dottore pensionato? Ma no, perché io cancello tutto, non voglio sentire Vabbè, cancello tutto, però se la risento. Vabbè, me la risento, benissimo, me la risentirò. Se vuole, poi veramente è libero. No, me la risentirò, grazie a lei. Saluti. Enzo da Napoli, buonasera. Pronto, Enzo? Buonasera. Sì, dica. Mi sente? Allora, buonasera. Senta, io sono un tassista, chiamo da Napoli. Sì. Allora, lei parla sempre di liberalizzazioni. Il signor Cruciani vi ha detto che le liberalizzazioni si devono fare dei taxi. Mi puoi dire perché si devono fare, che cosa si attende da questa liberalizzazione dei taxi? Enzo, naturalmente la cosa varia da città a città e da situazione a situazione. Di solito le medie del numero dei taxi rispetto agli abitanti sono di altre città europee, sono sempre più basse, quelle italiane. E lei sa che già quando ci fu la proposta di Bersani è stata fatta una legge per cui i comuni dove ci sono, c'è bisogno di più taxi, hanno già la possibilità di emettere delle licenze? Quindi una cosa in questo senso che dice lei è già stata fatta? Sì, ma evidentemente non basta, bisogna intervenire su altri aspetti che riguardano gli orari. Con la liberalizzazione? Sì, ma non è che liberalizzazione significa eliminare totalmente la questione della licenza, significa superare l'idea della licenza. Superare l'idea della licenza. Superare non è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa, perché abbiamo detto più volte che chi ha comprato una licenza in qualche modo non può essere. È una follia questa cosa della licenza, capito? Cioè, lei lo sa benissimo che è una follia. È una follia la cosa della licenza. Certo, non si può. Investimento fortissimo. È una follia. Uno perché deve essere obbligato a comprare? È una follia che è una concessione concessione comunale, com'è la licenza per un taxi, sia pagata 150-200.000 euro. Io, sarebbero tutti più contenti se non si dovesse pagare questo. Invece il pagamento di questa licenza comporta la creazione evidentemente di una casta, la creazione di un gruppo chiuso, il che non va bene. In linea generale questo, nessuno vuole dire... Te lo dico io che faccio il tassista da 10 anni. Sì, mi dica. Io guadagno in media 50 euro al giorno. Se sì. Questa è una casta, io le dico che questa è la casta dei morti di fame. No, ma io non sto dicendo certo, la casta, una, un casta dramma, infatti, ma... una casta ricchissima. Cioè le caste non necessariamente sono ricche, sono però... Qual è, la casta dei poveri? No, una casta però voglio dire, una casta significa che l'accesso che l'accesso non è semplice. L'accesso non è semplice. Ma comunque il servizio pubblico ha bisogno di una regolamentazione. Lei ha idea di cosa succedesse se di Belgio... Cosa potrebbe accadere, sì. Taxi? Ma non è la liberalizzazione, non è che, scusi, la liberalizzazione non significa che ognuno da un giorno all'altro si mette in macchina e fa diventare la propria autovettura un taxi, non è proprio così, E cosa intende per liberalizzazione? Ha detto vanno liberalizzati, in che modo? Ma poi se vuole scendiamo nel... Intanto comunque basterebbe dire che ogni volta che o a Milano o a Roma, io quello conosco, un sindaco ha provato a aumentare il numero... delle licenze si è trovato sempre a combattere battaglie pazzesche. Dopodiché è chiaro che parliamo non di persone ricche, tutt'altro, persone che stanno in macchina, che lavorano 9-10 ore al giorno e che sono state costrette a spendere 200.000 euro. Grazie. Paolo dalla provincia di Pescara, buonasera. Buonasera Cruzani, io avevo due dubbi. Il più importante, ma il mondo deve essere per forza con al centro la politica o invece... Seguendo l'attualità, un governo fatto di tecnici, ognuno è esperto del proprio settore, ma è concepibile secondo voi che avete... Scusi Paolo, perché adesso questo qua che governo è, scusi? La politica dovrebbe centrare anche per niente, cioè i partiti si possono eliminare. No Paolo, no, lei ha un'idea piuttosto distorta di quella che è la democrazia, abbia pazienza. I partiti pazienza. Si possono eliminare? Cioè come si crea, chi lo decide? In Corea probabilmente. Chi lo nomina questo governo? Chi lo designa questo governo? Scusi, caro signor Paolo. Io mi fido più di questo governo qui che non dei soliti partiti che dicono votare. Può darsi, a parte che la fiducia, nel governo Monti è diminuita nell'ultime settimane, ma al di là di questo la fiducia gli ha dato i partiti a Monti la democrazia è un'altra cosa, però Paolo è davvero un'altra cosa, che piaccia o non piaccia lei ha espresso molto chiaramente il suo pensiero, invece nella maniera più assoluta ha detto a me piace più un governo tecnico svincolato dai partiti piuttosto che partiti, a parte che anche questo non lo è svincolato dai partiti, primo. Certo. Va bene, grazie. Carlo, provincia di Foggia, buonasera. Pronto, buonasera. Io vorrei intervenire un attimo per quanto riguarda il discorso dell'articolo 18, però sono stato sollecitato dalle ultime 3-4 telefonate in cui si parla di liberalizzazioni, soprattutto da quella telefonata dell'avvocato. Vorrei ricordare che, per esempio, io sono laureato in informatica e nel nostro campo non è mai esistito l'ordine degli informatici in Italia, per cui noi siamo dei dottori in informatica e ci siamo dovuti adattare alla legge del mercato, nostro malgrado. Perché scusi, lei vorrebbe l'ordine degli informatici? No, assolutamente. E poi facciamo no. anche volevo l'ordine dire, di Babbo Natale? Assolutamente no. Perché sono tanti Babbi Natale, bisogna fare l'ordine di Babbo Natale. Ascolti, io non voglio dire che bisogna mettere l'ordine degli informatici, volevo solo ricordare agli avvocati che se uno è bravo fa la sua strada, fa la carriera, le persone lo vanno a cercare, cioè non capisco perché io se scrivo un ricorso a un giudice di pace devo andare per forza da un avvocato che mi cambia solo i nomi, data di nascita e l'impostazione della lettera è sempre quella, e per quello devo pagare 150 euro, bravo. Da un minimo a un massimo di 600, perché poi c'è il discorso delle tabelle, no? Per cui uno può applicare la tariffa minima o la tariffa massima, e per cui il cliente è sempre ostaggio dell'avvocato. Se il cliente sgarra un po', l'avvocato dice allora ti applica la tariffa massima. Se il cliente è consenziente, allora ti applica la tariffa minima, magari neanche te la fa duro. D'accordo, Carlo, non ho capito lei che cosa, però dice che è costretto a, quando uno deve andare dall'avvocato, ci sono anche per delle piccole cose. Non è giusto che se uno può anche scriversi da solo 4 righe, non necessariamente deve passare da uno studio legale e pagare 200 euro di parcella. Va bene, Carlo, grazie. Paolo da Milano, buonasera. Giusto. Paolo, dica. Pronto? Sì, vada. Ah no, niente, io sono Paolo da Milano, sono già intervenuto più volte nella sua trasmissione, l'ultima volta le avevo suggerito di modificare un po' il suo metodo e devo dire che effettivamente lei non ha cambiato una virgola. Non ho capito niente, scusi Paolo. No, io lo spiego meglio, ho la capacità di esprimermi quanto lei è quella di apprendere quello che viene detto. Lei è incapace di ascoltare le persone. Sì. Ed è una cosa molto grave. È gravissimo. Soprattutto, no, ascolti bene invece. No, ma è gravissimo, sì, lo so, ho capito, gravissimo. No, no, ma visto che parlava di Arena, sì. Allora io ho constato che se comunico alle sue segretarie di poterla mandare a quel paese, la chiamata passa. Sì. Se invece telefono per esprimere un pensiero un pochino più complesso, vengo, come dire, messo in coda come tutti gli altri. Il complotto di Paolo, il complotto di Paolo. Bravissimo. Il complotto. Invece io la invito a, nuovamente a modificare... Ma lei ha chiamato per cosa esattamente? Cioè, per dirle... Perché cosa ha chiamato? Scusi, signor Paolo, a parte questa stupidaggine che ha appena detto, pensando che dietro ci sia una scelta tra telefonate, cosa che... No, non è una stupidaggine, tant'è che ne ho avuto la conferma dalla ma sua... Ma quale conferma? Che ha fatto? La prova? Ha fatto delle indagini. Ha fatto un'indagine, ha fatto? Indagini conoscitive. Ha preso tutti i tabulati della radio. Siete quasi due comici. Io toglierei quasi a trasferirvi anziché a rimanere sulla radio, sì. A chiedere di fare di avere un contratto con qualche televisione. Ci sono dei programmi interessantissimi dove, vabbè, come coppia avreste anche successo. Vabbè, allora grazie. Lo invito a modificare la trasmissione e essere un pochino più rispettoso delle opinioni delle persone. Va bene, benissimo. Perché lei non ha questa, come dire, capacità di apprendimento, sì. Che le consente di offendere le persone quotidianamente. Bene. Ha detto la stupidaggine delle 19:55 16 secondi il signor Paolo da Milano, che ci invita a cambiare la trasmissione. Benissimo, la seguiremo per quanto è possibile, ma mi pare che non è, non, poi l'altro non è che ha detto dovreste fare questo piuttosto che quest'altro, cioè cosa dovremmo fare, Paolo? Dovete cambiare la possibilità alle persone di esprimere il pensiero. Ma lei lo sta esprimendo da due minuti e sta dicendo nulla. Offendere le persone, ma che offende? Che il medico prima e quello che il signore poc'anzi ha sottolineato è la realtà. Lei è capace di ascoltare le persone, abbia la compiacenza di accettare. Ma infatti la sto ascoltando oppure di non consentire, la sto ascoltando, la libertà di offendere, la sto ascoltando e anche e direi anche troppo, che insomma, combattimento pure. La sto ascoltando e mi è sembrato anche eccessivo lo spazio che gentilmente sono fin troppo educato nei suoi confronti, perché la seguo da tanti anni. Ma la prima cosa che ha detto ha detto qual è stata, meno male che è educato, la prima cosa che ha detto è che lei è incapace di ascoltare, cioè, no, male... ma essere incapace di ascoltare, guardi che non è un'offesa, è una constatazione. Lei è incapace di ascoltare senza esprimere. Nonostante tutto questo sono anni che continua ad ascoltare la trasmissione e quindi la abbracciamo fortissimamente. Ci sentiamo dopo, la ringrazio Paolo. Eccoci qui, sono le 20:00 24:00 24 per chiamarci in diretta. Già le 20 sono? Sì, sono le 20 in punto. Ma volano le sue trasmissioni. Indovina chi è con noi? Come faccio a saperlo? Siamo qui in studio a Milano. E che ne so, Mario Borghezio, buonasera. Buonasera e buona Padania. Eccolo qui, è tornato. Buona Padania differenzialista, Padania bianca e cristiana, Padania che deve fare le differenze. Ma come bianca e cristiana? Ti stai equivocando con questo discorso dell'antirazzismo un po'. Aspetti un attimo. Ma cosa vuol dire bianca? Bella coperta di un grande strato di neve. E vabbè, questo bianca per la neve. E poi diciamo con delle caratteristiche etnoculturali che la rendono il nostro panorama umano diverso da quello. Per cui, per esempio, con tutto rispetto, per il Maghreb, io assolutamente non potrei mai vivere, è chiaro. No. Ognuno per sé, Dio per tutto. E nemmeno in Senegal. Ma anche i magrebini magari vorrebbero stare meglio. Nemmeno in Senegal lei andrebbe a vivere, o sbaglio? No, scusi, si è sentito male, io sono qui da Bruxelles, non ho compreso bene la frase. No, voglio dire, nemmeno in Senegal lei andrebbe a vivere, immagino. Direi al netto del Senegal e di tutti gli episodi recenti del Senegal, mi permetto di dire che tutto questo razzismo fa un po' vomitare, l'antirazzismo di maniera fa un po' vomitare. Cioè, in che senso come l'antirazzismo? Ecco. Ma l'antirazzismo? Mi ricordano questi professionisti dell'antirazzismo, mi ricordano i professionisti dell'antimafia. Chi è? Tutti con la loro fiaccoletta che farebbero meglio a mettersela dove sono io. Dove? Vabbè, ma scusi, ma l'antirazzismo è a fondamento delle democrazie moderne, l'antirazzismo. Il punto serio è che diciamo, le differenze etnoculturali, non usiamo la parola razziali perché è una parola che ha diciamo assunto delle connotazioni. Vabbè, le differenze razziali, diciamo la verità, etnoculturali, etnoculturali sono una realtà fondamentale. Come insomma, dalla Bibbia in poi sono sempre state riconosciute. Scusi, lei mi sta dicendo, basta che ci sia un matto che fa una compie una cosa grave come quella che è avvenuta a Firenze. Gravissima, però diciamolo. Però ieri c'è stata un'aggressione culturale nei confronti del professor De Turris in una trasmissione, sì, che è veramente vergognosa. Cioè qui si scusi, che c'entra con questo? Ma non si può paragonare la morte del senegalese al professor De Turris? Io non farei più paragoni per un po' di tempo. Ecco, questo. Però le polemiche, per esempio quella trasmissione di ieri a cui io non ho assistito, ma che trasmissione è, scusi? Sull'infedele, hanno messo un po' sotto sul banco degli imputati uno scrittore di fantasy importante, sì, Gianfranco De Turris, un intellettuale di destra come Gianfranco Turris. Adesso addirittura qualcuno dice mandiamolo via dalla Rai, ma qui siamo matti, perché invece si tratta proprio di un intellettuale che svolge tesi e scusi, al di là di questo, Borghezio, che non hanno niente a che vedere con il razzismo, però qui sono dietro tutti i razzisti, capisci? Scusi un attimo, io direi che questi episodi, ecco, sì, questi episodi gravi, quali? Non devono farci perdere il lume della ragione, il punto di riferimento, e anzi, sì, direi che è giunta l'occasione di dire basta con questo antirazzismo del cazzo, perché premesso che diciamo condivido naturalmente tutto quello che si dice, si condanna quando ci sono delle azioni non solo violente ma anche delle dottrine pericolose sulla supremazia di, cioè, questo, scusi, controllo. Quel signore là che premesso, le differenze ci sono, le negazionismo, cioè lei dice che le razze esistono? Le differenze esistono, esistono e sono chiare, profonde, e sono un problema grave che ci assillerà sempre di più. Io vivo qui a Bruxelles, basta un piede di sera. Io quando metto il naso fuori dal mio albergo la sera, diciamo, pur non essendo un coniglio, non voglio dire di essere Riccardo Cordileone, ma insomma, coniglio non sono, ho paura, perché paura. È un panorama che non voglio dire che non ha niente a che vedere col Belgio, con la città, con le nostre tradizioni, è lo stesso in certi quartieri. Se uno va a Parigi e va verso la Gare, dalla Gare du Nord verso Le Puys, verso la Porte Clignancourt, ha un panorama che non è quello di una città francese. Ma che c'è? Scusi un attimo, Borghezio, però le voglio chiedere una cosa. A me non piace quel panorama lì. Ma i criminali sono bianchi e neri. Non mi piace. Ma i criminali non hanno colore, però. Non mi piace. Questo l'abbiamo capito. Di persone che legittimamente pensiamo che le nostre città invase così non va bene. E allora, e scusi una domanda, non ci rompano il coglione con questo antirazzismo. Non ci rompano i coglioni con questo. Dobbiamo pensarla come pensiamo. D'accordo, però scusi un attimo. Siamo legittimati. Borghezio, scusi un attimo, però. Prego, con massimo rispetto dell'opinione altrui, però non ci rompano i coglioni. Non ci rompano i coglioni. Ma scusa, comunque. Però voglio dire una cosa. L'antirazzismo è un valore. Secondo lei, la presenza dei senegalesi. Ma adesso i valori. La presenza di quei senegalesi lasciamo da parte i senegalesi. No, aspetti un attimo. Si fa, diciamo, è come in questo momento, essendoci stato questo brutto episodio, che ovviamente io sono come tutte le persone. Appunto, no, voglio dire. Però voglio dire, mettono la presenza degli imputati, il povero De Turris che ha fatto la prestazione. Ma lasci perdere, ma chi se ne frega di De Turris? Che ce ne frega di De Turris? Scusi un attimo, Borghezio. Sì, ma la discussione nasceva da quello, perché il libro era del... D'accordo, del, io voglio dire una cosa. Il matto di Firenze. Voglio dirle una cosa. Il matto di Firenze, che tipo di gesto ha fatto, secondo lei? La follia. Da matto. Da matto. Il matto generalmente si comporta da matto. È matto, gesto da matto, un gesto da matto. Un gesto da matto che ovviamente... tutti condanniamo, però voglio dire, per quale motivo quando, tutte le volte che succede un fatto di questo genere si scatena un'ondata di facile e caramelloso falso buonismo antirazzista che sì. Devo dire a me personalmente, credo a molti, fa venire voglia di vomitare. Scusi, l'antirazzismo è un valore e si vuole far dimenticare tutta la realtà diciamo grave e pericolosa del comportamento di questi ma rom. Ma c'è stata una spedizione punitiva anche in un campo rom a Torino non c'entravano nulla, subito presi come il nemico i poveri rom che erano lì. Ecco, è un atto gravissimo che, voglio dire, si inquadra anche nel modo di fare e di pensare di certi teppisti delle periferie, eccetera. Però se noi vogliamo andare, tutto ciò premesso della condanna, eccetera, tutto ciò premesso, sì. Nessuno pone il problema, direi, etologico. Perché Conrad Lorenz ci insegna quali sono le conseguenze del mettere, cioè invadere un quartiere, proprio il caso di Torino mi sembra da manuale, come quello delle Vallette, un quartiere popolare, super affollato, e piazzargli lì un campo nomad invasivo, e poi non ci stupiamo se succedono fattacci di questo genere. Ci stupiamo. Scusi un attimo, Borghezio, e allora anche la presenza quindi di la ricetta, no, oddio mio, mica mi lascio parlare questi per voglio dire per trovare delle spiegazioni e soprattutto delle medicine a questi gravi episodi, la ricetta dell'antirazzismo d'accatto, dell'antirazzismo direi parolaio, inutile quello della fiaccoletta e della lacrimuccia in chiesa, non serve un tubo. Scusi un attimo. Anzi, è negativo perché, bene, però si fermi un attimo. Come fondarsi gli occhi di salame e non capire che certe situazioni e certi comportamenti Borghezio, suscitano delle reazioni che sono etologiche. Beh, abbiamo capito. Da qualche migliaio di anni umani e prima avevamo delle reazioni che appartengono a un altro regno. Ma scusi un attimo, Borghezio. Chi non vuole che gli vadano il territorio vuole essere libero in casa propria. Borghezio, lei è caricato a pallettoni, però le voglio chiedere una cosa. I senegalesi a Firenze stonano con la città. Io non conosco la realtà di Firenze. Ma stonano con la presenza. Quello che sento dire. Stonano con la città. Stonano con la città. Non è che stonano, sicuramente certi comportamenti, l'invasione dei Vukupra nelle strade storiche, d'arte, eccetera, rischiano di cambiare la configurazione della città. Mi pare che anche esponenti, diciamo, intelligenti del centro-sinistra fiorentino abbiano più volte sollevato questo problema. Cioè, i Vukupra senegalesi non vanno al cuore della questione. Il cuore della questione è che questi qui, che sono abituati nel loro paese a stare lì col tappetino e con le collanine in 50, in una stradina, e voglio dire, alterano il nostro panorama. Dunque se ne dovrebbero andare da là. E poi in molti casi, sbevacchiando e non abituati agli alcolici, cioè hanno dei comportamenti che suscitano delle reazioni alle volte anche inconsulte. Se ne dovrebbero andare da lì. Non si sarebbe mai dovuto consentire né a certi campi nomadi di abusivi il proliferare. No, Firenze. Io sono Scusi, a Firenze quei senegalesi se ne dovrebbero andare da lì dove stanno? I senegalesi di Firenze, dopo quello che è successo, sono da tutta l'opinione pubblica melensa e buonista intoccabili. E dunque, però, secondo lei dovrebbero andare via da là o no, dal centro storico? E siccome non sono Gesù, non voglio essere di nuovo crocifisso. No, perché? No, però, come se lei dice. Esatto. Lei ha appena detto che i senegalesi o questi alcuni gruppi di immigrati stonano, cioè non sono conformi a come sono organizzate le nostre città. Questo lei ha detto. Ci sono due aspetti. Che lei ha giustamente riportato le mie parole della non conformità, e questo è il meno grave. La cosa più grave è il senso di invasione. Hanno invaso Firenze delle reazioni etologiche. E allora via, scusi, io però richiamo l'insegnamento di Conrad Lorenz, premio Nobel, che dice che anche in comportamenti umani rispondono a queste logiche. Dunque il pazzo ha avuto il pazzo è una follia. Scusi un attimo. Però devo dire, ci sono i fratelli che non pure i coglioni. Dunque il pazzo ha risposto ad un'invasione. Il pazzo ha risposto alla pazzia. Però non dobbiamo nasconderci dietro il dito e dopo aver condannato il pazzo, la pazzia e tutti quelli che fanno le pazzie, dobbiamo dire c'è un problema molto grave. Guardi, Borghezio, è di invasione. Ma andrebbero mandati via dal centro di Firenze o no? Io lo chiedo per l'ennesima volta, andrebbero mandati via dal centro di Firenze o no? No, Firenze andrebbe abbellita, andrebbe riconosciuta, e la gestione di questi venditori e di queste presenze andrebbe fatta con un minimo di con un grano salis. Ma andrebbero cacciati o no? Me lo dica, andrebbero, se andrebbero cacciati o no? No, in questa situazione non mi sento di dire che debbano essere cacciati, perché ormai il male c'è. Il problema è che non deve esserci il male. Ho capito, appunto. Allora, però, scusi, i Rom a Torino stonano, i senegalesi a Firenze stonano. Via i leghisti da Roma! Io dico di più: anche i leghisti a Roma stonano. I abusivi, i furti delle case, i comportamenti indecenti, lo sfruttamento dei minori mandati a rubacchiare, del pericolo delle città, eccetera. Perché ce lei vuole dire o non vuole dire? È una forma di inciviltà, loro. Loro, gli incivili, beh, sono loro, gli incivili sono loro. I genitori che mandano, anziché mandarli a scuola, li mandano a rubare, non tutti, non tutti, quelli non che tutti. Si comportano così. Abbiamo la pubblicità. E poi non stupiamoci che scattano dei meccanismi che portano anche il pazzo a comportarsi in quella maniera lì. Chissà come mai. Va bene. Abbiamo la pubblicità, torniamo subito in diretta da Bruxelles con Mario Borghezio, che è tornato alla carica, alla si può carica dire. Come al solito moderato, come possiamo al solito. Salutare il signor Liguori, che mi ha dato un bel messaggio. Sor Paolo Liguori, che ti ha detto, signor grande Liguori? Direttore Liguori, no, ci sta ascoltando sempre. A tra poco, dice, salutami Cruciani. Pubblicità, a tra poco. Siamo qui 20:16, 800 24 00 24. È stato il giorno dell'intervento di Giorgio Napolitano a tutto campo. E Napolitano ha detto: non c'è nessuno strappo costituzionale, con Monti la democrazia non è stata sospesa. Beh. È un'analisi molto superficiale dire che c'è una sospensione della democrazia. Beh, fino a qua ci può anche stare il ragionamento. Secondo me ci sta meno il ragionamento quando dice: bisognava evitare uno scontro elettorale devastante. Beh, questo non è che sta tocca al capo dello Stato. Beh, Napolitano ha avviato un percorso, ha salvato il paese. Ho capito, ma non si con può dire con il consenso delle forze politiche. Non si può dire bisognava evitare uno scontro elettorale devastante. Cioè, magari sarebbe stato devastante. A parte che ma gli scontri. Dire, ma che il capo dello Stato, che è il bubù che passa. Cioè lei, caro amico direttorissimo Cruciani, ha questa immagine del capo dello Stato come se il capo dello Stato è un bubù. Poi che ha passa. Detto anche la sostenibilità internazionale, riferendosi al governo Berlusconi, era al limite. Era al limite. Come? La sostenibilità interna, sai che si parla sempre, no? Il Presidente della Repubblica utilizza sempre. Ma le sue ragioni. Era al limite. Sì, però sono degli interventi molto, molto politici. Ma d'altra parte non è una novità il ruolo politico che ha assunto il capo dello Stato in questa situazione. C'è un passaggio anche sulla secessione, molto duro come al solito, di Napolitano. Lo vogliamo sentire? Sentiamo. Subito. Abbiamo legato l'idea forza dell'unità a istanze essenziali di diversità, pluralità, solidarietà, sussidiarietà e al concreto impegno del superamento del centralismo statale. Si è in pari tempo confermata l'artificiosità e vanità della predicazione secessionista. Artificiosità e varietà della predicazione secessionista. Borghezio, che dice di Napolitano? Con tutto il rispetto che naturalmente si deve al Presidente sempre, della Repubblica, sempre, sì? Mi sembra che questa volta sia lui che la fa fuori dal vaso, perché quella che lui chiama con un'espressione diciamo poco simpatica, la predicazione, e sembra quasi, voglio dire, con un sottofondo di malcelato disprezzo, la predicazione secessionista è la legittima affermazione del principio del diritto all'autodeterminazione. Vabbè, comunque, è secondo lui la carta dei diritti dell'uomo. Secondo me, adesso non esatto. Non faccia la conosce e fa finta di non conoscerla. Noi indipendentisti abbiamo tutto il diritto di dire che l'Italia ci sta stretta, che noi vogliamo. Vabbè. Ma lei sarebbe disposto a morire per la Padania? Ma diciamo, morire c'è sempre tempo, però combattere senz'altro, vinciamo, perché dobbiamo morire noi? Ma lei si sente, lo so, dicevo, e ce lo vuole impedire, non mafiosaccio si intende, non si intende certamente il presidente Napolitano. Ma lei si sente come in Cecenia, ad esempio, si ricorda, no? In che situazione ma, ma noi non siamo ceceni, noi siamo pacifici, sa? Se siamo stati in questo stato centralista e abbiamo mantenuto sta baracca come i corsi, le tasse a uno stato come lo Stato italiano, vuol dire che oltre a essere dei grandi pirla noi del nord siamo anche pacifici, però pacifici è una cosa, coglioni un'altra, ecco. Ho capito, cresce di fronte anche al governo poco democratico come, sì, come questo, imposto dall'alto con le tasse e la spremitura di ogni genere, cresce il consenso. E le parole del presidente Napolitano, sì, rivelano debolezza del progetto unitario. Beh, perché debolezza, questa adesione alle celebrazioni, io non l'ho vista, sinceramente. No, non l'ha a vista. Me è sembrato un grande spreco di denaro che è poco confacente con la situazione economico-finanziaria del Senta, paese. Ma questi addirittura vorrebbero proseguire nel 2012, ma non è mica la festa di Piedigrotta. Io capisco che ce l'abbiano anche, voglio dire, ce l'abbiano un po' questa abitudine in certe parti del paese, pensare sempre alla festa. Noi invece padani pensiamo sempre al lavoro, alla produzione. Qui la festa, il 150esimo, dato e non concesso che fosse una cosa da festeggiare, adesso il 31 dicembre finisce. Comunque Napolitano l'ha fatta fuori dal basso, qui vogliono ancora continuare nel 2012, ma manifestazioni, qui celebrazioni, ma cosa, nel 2050 ci romperanno ancora le palle con questo 150esimo, con l'Unità d'Italia. Ma perché, è uno poi dei ci sarà il 200esimo, esatto. Ma è uno dei miti fondatori del nostro paese. Sono i termini che ha usato il Presidente della Repubblica nei confronti della predicazione secessionista, artificiosità e vanità. Io li uso legittimamente per le celebrazioni del 150esimo. Buttate via dei soldi che potrebbero essere utilizzati molto meglio. Senta Borghezio, oggi c'è un sito che si chiama Stormfront, un sito pare di estrema destra, che ha pubblicato una lista di magistrati, di giornalisti, di religiosi che aiutano gli immigrati definendoli dei delinquenti. Per esempio tra questi c'è anche il signor Lerner, il signor Costanzo e altri ancora. Scusi un attimo, ma lei per esempio potrebbe definire il signor Lerner un professionista dell'antirazzismo? Sì, certamente sì, certamente non mi associo e non assolvo queste definizioni, diciamo, infamanti. Ma meno male che è un professionista dell'antirazzismo. Però la definizione professionista dell'antirazzismo a Lerner gli sta pennellata come un... Alla grande, dice lei. Alla grande. Ma meno male che c'è... L'antirazzismo dovrebbe essere un valore condiviso da tutti, l'antirazzismo. Sì, vabbè, non è un valore, scusi, non è un valore l'antirazzismo? Ma sa, valori ce ne sono tanti, cosa vuole che le dica? Io sinceramente, coniugato in questo modo, pasticcione, un po' anche nauseabondo, ma anche il suo collega, da una parte lo vede la trave dall'altra, sinceramente non anche il suo collega Tosi è andato alla fiaccolata a favore dei senegalesi. I sindaci ce l'hanno un po', sai, il sindaco ci deve anche un po' ruffianare la popolazione, tutte è sindaco di tutti. Beh, è andato convinto. Chiamano, poi magari ci sono, c'è il vescovo, dice venga anche il sindaco, uno deve andare, anche se magari non ne ha una gran voglia. Ma ci è andato convinto, mi sembra. Io ho la fortuna di non essere sindaco, quindi non ho capito, fare quello che cazzo gli pare. Ecco, anche perché le considero delle manifestazioni di retorica bolsa, inutile e controproducente. Però, perché quando non si affrontano i problemi, appunto, ho capito, però, si fa sempre una grande però cazzata. scusi, ecco. Il signor Tosi ci è andato consapevole a questa. Ma Tosi è sindaco di Verona e fa quello che meglio crede. Secondo me è un ottimo sindaco. Ma ha sbagliato ad andarci? Secondo me è anche uno che ha le idee chiare sull'immigrazione. Ha sbagliato ad andarci? No, io devo dire, ho un'ammirazione sconfinata per la figura politica di Tosi e quindi diciamo parto anche con un pregiudizio piuttosto favorevole. Lei non ci sarebbe andato, lei non ci sarebbe andato alla fiaccolata di solidarietà dopo la tragica morte dei senegalesi a Firenze. Se fossi stato sindaco non saprei come mi sarei comportato, ma da cittadino mi dovevano portare lì trainandomi con un carro armato, perché io ne sarei stato a casa tranquillo guardando dalla finestra questi con la fiaccoletta, che mi sarebbero sembrati altrettanti imbecilli, perché devo dire non serve proprio a niente. La medicina nei confronti di episodi come quelli che sono avvenuti. Qual è la medicina? Non è certamente, non sono queste fiaccolate. La separazione. Come la medicina contro la mafia non sono le fiaccolate dei professionisti dell'antirazzismo. Chi è il principale professionista dell'antirazzismo in Italia? È una bella domanda e devo dire, ci dovrei riflettere un po' su, comunque ce n'è una bella serie, perché diciamo che di gente inutile anche nel mondo politico culturale, specialmente nel mondo politico culturale, televisivo e anche giornalistico, ce ne sono delle carrettate. Senta, quindi, ma anche lei è pronto a fare la rivolta contro l'IMU? Beh, la rivolta contro l'IMU è nel DNA della Lega. Io mi permetto di ricordarvi che io tutti la pensano così. Il movimento autonomista attraverso il movimento di liberazione fiscale. Noi ce l'abbiamo nel sangue. Ho capito, cioè, ma non è che avete abbassato le tasse. Il centralista, pasticcione, in qualche settore anche mafioseggiante, incide i suoi denti aguzzi insaziabili nella carne del popolo produttivo e onesto del nord, quello diciamo che è come se arrivasse Dracula. Che immagine, quindi, che immagine. Una sana ribellione, sì, fiscale è, direi, non dico utile e necessaria, semplicemente doverosa. Senta, ma se lei fosse chi non la fa, se lei traditore, fosse... quindi il traditore, sindaco, il sindaco di Varese che ha detto che non la fa è un traditore. Ma i sindaci dicono abbiamo bisogno di soldi, bisogna valutare eccetera, però quando nasce il Parlamento del Nord, io sono convinto lo farà, quando squilla, quando c'è lo squillo di tromba, la rivolta di tromba patriottica contro lo Stato centralista e le sue tasse ingiuste, perché la tassa della prima, l'IMU sulla prima casa è una cosa ben oltre l'incostituzionale, una cosa vergognosa, una cosa contro la nostra storia, il diritto di proprietà, la nostra civiltà, eccetera. Ma addirittura, voglio dire, è uno squillo di tromba al quale chi non risponde è un coniglio o non è un vero padano. Senta Borghezio, per concludere, se lei fosse il sindaco di Firenze, cosa farebbe lì al centro storico? Farei una bella pulizia, perché di tutto il marciume che c'è, non soltanto straniero. Basta ambulanti, giusto. È una delle più belle città del mondo e andrebbe preservata anche a favore di tutte quelle persone che vengono dall'estero, stranieri. Basta ambulanti. Ambulanti direi ridotti al minimo, ambulanti regolari al minimo indispensabile, come si deve fare in tutte le grandi città d'arte. Fare pulizia, caro Borghezio, la salutiamo. Grazie. Qui da buon Natale a tutti, però anche a Natale i veri buoni siamo noi cattivi. In che senso? Come? Scusi, noi cattivi, scusi. Certo, perché noi parliamo chiaro e di fronte nella nostra coscienza, anche voglio dire guardando pensando al Natale in cui ci deve essere solidarietà e anche amicizia, fraternità verso tutti, però una parolina chiara nei confronti di quelli che rompono i coglioni ci sta sempre. Messaggino di Natale di Borghezio. Grazie, buona serata, buon Natale. Arrivederci. Anche persino a voi, buon Natale a voi. Bene, grazie. Angelo da Napoli, grazie. Buonasera. Persino a voi, hai sentito? Angelo? Pronto, sì. Vada. Sì, prima di tutto volevo fare gli auguri perché penso che non ci sentiremo da qui alle festività. Noi facciamo le corna e ci tocchiamo ovunque. Sono un affezionato ascoltatore, già qualche volta sono intervenuto. Vada. Mi piacerebbe molto. Volevo dire, io che faccio l'avvocato, voglio dare una novità, cioè un segno di svolta. Sì. E quindi dico, viva le liberalizzazioni. Voglio liberalizzare tutti gli ordini, in particolare quello degli avvocati, anche perché a me non me ne frega niente, visto che vivo in Campania e lavoro già in un clima di liberalizzazione già di fatto. Lì ognuno fa quello che cazzo gli pare, per cui 48.000 avvocati tra la Lazio e Campania, e quindi voglio dire a noi che una follia. Il problema sarà dei milanesi, dei firenzesi. Vabbè, non è che esercitano tutti questi 48.000, poi infatti. No, i 48.000 sono quelli iscritti all'ordine degli avvocati. Appunto. Presumo che sono iscritti all'ordine, vuol dire che esercitano, altrimenti come fanno a pagare le tasse se non esercitano? Vabbè, ma questo è un problema di quelli che sono iscritti e poi non lavorano, non lo so. Fatti loro. Io ribadisco, sono favorevolissimo alla liberalizzazione totale, integrale, termonucleare degli avvocati. Bene. Così come spero che ci sarà la liberalizzazione integrale di tutti gli altri ordini. Anche i giornalisti, oggi c'è stato un attacco. No, i giornalisti no, perché come no? Noi siamo da giornalisti professionisti siamo non favorevolissimi. Voglio che ci sono solo cruciali, perché sennò incominciano a venire quelli che si pigliano €50 per fare una trasmissione come la vostra e non stanno alla vostra altezza. E invece no, io preferisco magari anche di vedere quei maledetti tassisti, maledetti farmacisti che invece stanno 20-30 tassisti in un paese dove ce ne potrebbero stare 300, o i farmacisti dove ce ne potrebbero stare 300, e invece sono sempre quei maledetti 20-30 maledetti inteso in senso ovviamente bonario, chiaramente. E quindi veramente io, diciamo, l'altra volta assistevo in televisione a un dibattito, c'erano i tassisti, i farmacisti, ognuno si guardava e noi non possiamo e voi che volete, e quella cosa mi faceva venire un senso di nausea, di vomito, dicevo ma sto paese non cambia mai. Bravo. Non succederà mai niente. Bravo, però, Angelo, l'abbraccio, devo dare lì la borsa. Volevo dire l'ultima cosa, dica. L'ultima cosa la posso dire, no? Come diceva il grande Ernesto Rossi, che sicuramente che lei che è stato radicale, sì, lo conosce. Dica. Io introdurrei una quota di parlamentari eletti per sorteggio. Secondo me è un'esperienza da provare, almeno una legislatura, vedere magari il 20-30% sorteggiati. Grande Ernesto Rossi, grande. Abbiamo la borsa, torniamo subito. Eccoci qui 2035 800 24 00 24. Non abbiamo dato una notizia importantissima. Che notizia c'è? Oggi è nata la figlia di Ruby Rubacuori. E beh, che notizia è? Ma com'è, è una cosa clamorosa. Ma che roba? La figlia di Ruby. Ma nessuno se ne occupa ormai. Ma come di nessuno? Cose. La ormai figlia sono di cose Ruby superate. Beh, in altri momenti sarebbero state pagine e pagine. Adesso. Ma sai come si chiama? Come... Non lo so, non mi interessano queste cose. Che, come si che chiama? Praticamente è la bisnipote di Mubarak, sostanzialmente, no? Sì, cioè, questa, sì. La figlia di Ruby, sì, sarebbe la bisnipote del signor Mubarak. Ecco. Come si chiama? Non hai capito. Si chiama Aurora. Aspetta, ce l'avevo no, Aurora, prima. No, Aurora, eh? Non è possibile. Anche Aurora. Anche sì. Aurora. Quanti nomi ha? Due nomi. Due nomi, vabbè. Questo lo dico, Roberto Davarese. Però quello sarebbe importante sentirla, Ruby. Vabbè, Roberto. Buonasera. Vada. Intanto complimenti per la trasmissione e per la coppia. Sì. Grazie, amico mio. Io ho chiamato per suggerire l'applicazione del criterio di merito allo stipendio dei parlamentari. Sì, è impossibile però farlo. Sofia Aida si chiama. Sarà impossibile, ma è una provocazione. Sì. A me piacerebbe legare lo stipendio dei parlamentari alla riduzione del debito, alla riduzione della pressione fiscale, all'aumento dell'occupazione nel settore privato, perché nel pubblico è troppo facile. Cioè lei dice più queste cose vengono risolte, più dovrebbero guadagnare i parlamentari. Sì. E però è complicato perché poi pensando, i dati... Cioè se il paese va bene... È una provocazione. Cioè se il paese va bene possono anche guadagnare di più, se il paese va male... dovrebbero... È una stock option, giusto? Vale per le aziende, perché non deve valere per la politica? Ragazzi, insomma, di che parliamo? Dai. Però non è un'idea, cioè è una provocazione, ma è una cosa che merita. So che è una provocazione, bravo, che è possibile, però bisogna fare qualcosa, perché da qui se no non ne usciamo. Roberto, è una provocazione, va bene, però insomma, impossibile da mettere in pratica, ma è una cosa non stupida. No, non è una cosa, cioè, non posso stupida dire che è una cosa intelligente, quindi devo dire che è una cosa non stupida. Beh, addirittura adesso, guardi, addirittura no, si potrebbe fare, perché non è praticabile, però è bellissimo, tra l'aumento dell'avanzo primario collegato alla riduzione della pressione fiscale. Beh, è mica sbagliato. Vabbè, insomma, io penso che è un'utopia. Ma è una bella idea, però dovrebbe essere una minaccia da sottoporre ai parlamentari. Tanto poi decidono loro comunque. Quindi, esattamente. Quindi è difficile. Il governo nulla può se il Parlamento non approva. Quindi... Brava persona. Bene, grazie Roberto. Tina da Milano, buonasera. Tina Selmi? No. Buonasera, dottor Cruciani. Finalmente, mi raccomando, non cambi di una virgola a proposito dell'interlocutore che mi ha preceduto. Ma non si preoccupi, non c'è nessun altro. Non c'è nessun stasera timore. La sento abbastanza rilassato e quindi... Beh, insomma, dipende. Ma insomma, di fumare le balle da stamattina. Parenzo, invece, stasera mi sembra un po' un peperino. Siamo sempre uguali. Ascolti, io mi riferivo appunto sempre alla solita storia della casta, però insomma... sono allibita dal fatto che nessuno ha ancora toccato la RAI, per esempio. Cioè se ne parla da anni, canone non canone, si paga non si paga, ma il fatto di tagliare, io sono rimasta a quota 1200 soltanto per i giornalisti, nel frattempo saranno anche aumentati i dipendenti, dice lei, no? Sì, dipendenti, ecco, bravo. Guardi, qui c'è solo una ricetta per quello che riguarda la RAI, nel manifesto della Zanzara, caro Parenzo. No? Qual è? Privatizzare subito. Bravo, bravo, bravissimo. Perché bravissimo. Si sono lottizzati pure le palle del cavallo di Viale Mazzini, cioè se lo sono proprio spartito e tutto. Non è possibile, e non è possibile nessun'altra soluzione, perché quando una c'è di mezzo pubblica la politica, quando c'è di mezzo la politica non c'è niente da fare. Per ma cui... se ci si mette il popolo. Ci vuole una rete pubblica e le altre due private. Una pubblica fatta molto bene, riducendo sì, l'organico, con un grande telegiornale, uno solo, uno grande, bello, con inviati in tutto il mondo, dalla Cina all'India, al Bangladesh, tutto il mondo. Spendessero inviati, quello che vogliono. Ma una rete, una sola. Una. Pronto? Sì. Sono ancora in diretta? Certo, sì, Tina, dica. No, certo. Volevo solo dire, che senso ha avere tre reti adesso, nessuno, quando con le vari canali privati, le TV private, le pay TV, eccetera, non ha più senso. Almeno uno sicuramente, ma si potrebbe togliere anche quella, si privatizza, appunto, e basta. Perché le racconto un aneddoto. A fine settembre, nel periodo delle sfilate a Milano, io lavoro un po' in questo campo, avevo un invito, ero in via Gesù, e mi sono veramente arrabbiata. Tra due ali di folla si apre tutto, arriva la Mercedes della Rai, eccetera, eccetera, Mercedes Diamante. Una volta andavano coi furgoni, no? Furgone da lavoro, naturalmente, eccetera. Ecco, tutti questi lussi ce li possiamo permettere? Vabbè, adesso, signora Tina, lei ci sta citando una cosa e noi non sappiamo. No, ho capito, ma si sa che è così. Ai tempi di Papa Wojtyla c'era lo scandalo che giravano, spendevano miliardi, spendevano centinaia di milioni, pardon, miliardo era quello del Papa. Ecco, tutto il seguito della Rai, 6-7 auto, eccetera. Tina. Voglio dire, qualcuno faccia le scarpe anche a loro. Sì, no, ma per carità. Grazie, Luca da Pordenone, buonasera. Buonasera. Dica. Lorenzo, buonasera Cruciani. Allora, ritornerei sull'articolo 18, auspicando che finalmente sia un dibattito rigoroso sulla rigidità del mercato del lavoro. Allora? Per quanto mi risulta l'articolo 18, disciplina soltanto il reintegro sul posto del lavoro lavoratore licenziato. Allora, se lo si abroga, rimane il diritto del dipendente ad un equo indennizzo. Questo equo indennizzo comunque è una tutela per il lavoratore, anche per l'associato, chiaramente, come dice Bernabé, come dice Bombassei, come dice Marcegaglia, ad una riforma del mercato del lavoro. L'equo indennizzo più un mercato flessibile garantirebbe, secondo me, un rilancio dell'occupazione, soprattutto sulle fasce giovanili, quelli attualmente che chiamiamo parasubordinati. Vabbè, allora Luca, adesso senza scendere troppo nel dettaglio, qual è? Sono favorevole all'abrogazione dell'articolo 18. Ah, benissimo, anch'io per cui. Ma che serve da solo così? Ma sì, ma se sempre ma tutti dicono che è una puttanata, non è vero che tutti dicono così. C'è sempre, riformate il mercato del lavoro, c'è sempre il benaltrismo, pagate di più, nessuno lo vuole pagate fare. Di più i contratti a tempo determinato, nessuno lo vuole fare. C'è solo uno modo per rendere la disincentivare la precarietà e aiutare le aziende: pagare di più il tempo determinato e di meno il tempo indeterminato. Ci sono tante soluzioni. Questo il contratto unico di chi all'articolo 18 cose. Chi se ne frega dell'articolo 18, no, fate, ma è discutete anche di queste cose qua, è importante, è importante anche che riguarda pochissimi lavoratori, vabbè, 18, ma è comunque importante perché è un simbolo per voi, bene. Per voi padroni è un simbolo. Ma che padroni, è importante fare battaglie e vincerle. Marcello da Roma, buonasera. Poi i toni utilizzati nei confronti della Fornero da parte dei sindacati sono vergognosi. Perché diciamo la verità, vergognosi. Senta, io volevo rispondere alla questione di Borghezio. Cioè, qui se c'è qualcuno che si deve togliere dai coglioni, proprio loro, a cominciare Marcello. Da Borghezio. Però Marcello, la sentiamo cazzo. Sì, un attimo solo, la sentiamo male, perché non la vogliamo interrompere in questo suo, in questa sua moderata intemerata nei confronti del signor Borghezio, però la sentiamo veramente male. Allora, Matteo da Modena, buonasera. Sì, buonasera. Senta, purtroppo io volevo farvi i complimenti, perché finora avevate avuto il buon gusto di non intervistare persone come Borghezio. No, veramente abbiamo intervistato più volte, però. Appunto, e purtroppo non posso più fare i complimenti, perché purtroppo non li faccio questa sera. Non li faccio, per carità. Sì, perché secondo me in un paese di persone ignoranti come questo qui, un partito come la Lega può essere molto pericoloso. Addirittura. Perché loro hanno convinto praticamente una fetta di questo paese di essere una specie di razza eletta. Cioè, i padani sono una razza eletta. E a me questa cosa mi dà molto da preoccuparmi, ecco, secondo me. Vabbè, lei è preoccupato dalla Lega. Gianni da Bari, sentiamo da chi è preoccupato. Pronto, buonasera. Io avevo giusto due osservazioni rapide. Sì. Una su Borghezio. È giovane questo ascoltatore, eh? È molto, grazie. Quanti anni allora, ha? Su quanti anni 28. Ha lei? 28. Bravo. E ascolta già la Zanzara. Ma già da 3 anni circa, bene, quando bene, ho iniziato Gianni a lavorare. Dica. Allora, su Borghezio, rapidamente per lasciare anche lo spazio agli altri radiospettatori, io condivido pieno le parole di Borghezio, perché è vero che la condivisione con persone che provengono da paesi stranieri sia a volte insopportabile. Però le ragioni quali sono? Questa gente non è che viene per piacere, viene perché sta scappando da una realtà pessima. In una trasmissione di domenica scorsa, quella di Report, si parlava altro della caccia dei terreni e del massacro che stanno facendo su un territorio d'origine di queste persone che sono costrette a scappare. Quindi lui, in qualità di esponente europeo, per quel motivo non punta ad interventi che possano sanare la situazione a monte, in modo tale che queste persone restino lì. Poi? E la seconda osservazione è legata al fatto che questa sera ho chiamato per ben 2 volte, quindi concordo con un radiospettatore di precedente, fingendomi un po' stupido, un po' meno stupido, e avete preferito lo stupido, quindi dei grandi burattinai radiofonici spettacolari, vi adoro per questo, quindi condivido quello che ha detto prima l'altra persona, però altresì Gianni, non c'è nessun purtroppo non abbiamo tempo di fare il ci sono delle persone, delle ragazze che impazziscono al telefono, c'è il signor Cruciani che ha un grande monitor davanti, c'è scritto linea 1, linea 2, linea 3, se abbiamo possiamo tempo poi selezionare dalla voce di voi ascoltatori quello mi viene da piangere. Vaneggia, glielo dico io, Vaneggia. Dove allora, si trova? Abbiamo un grande ospite tra pochissimo che deve replicare un intervento di ieri e altre cose, un tuo amico, traffico. Vittorio, resta lì, traffico. C'è già Sgarbi. Ah, vado via io. Eccoci, Vittorio Sgarbi. Eccolo. Come andiamo? Ciao, Vittorio. Oilà. Non ce la posso fare un'altra serata chiusa con Vittorio. Vabbè, dai. Vabbè, ci io gli voglio minuti, bene comunque. Ci sono 10 minuti. Sì. Allora, Sgarbi, ieri sera Toscani, ospite nostro, ha detto che tu sostanzialmente a Salemi non fai assolutamente nulla. Ha detto che non fai un cazzo. Ha parlato di coitus interruptus. Sentiamo questa cosa del coitus interruptus, va. Toscani, no, va bene, lo lasciamo perdere. Sì, lasciamo, se ce l'hai è buona, faglielo sentire, perché lo carichiamo a pallettoni, Vittorio. Vabbè, coitus interruptus. Sgarbi ha la coitus interruptus, non riesce a concludere niente. Ma no, cos'è che combatta? Chiacchiera Sgarbi, non conclude niente, parla. Basta, bellissimo, molto importante chiacchierare, però alla fine bisognerebbe anche concludere un po'. Vecchie ruggini. Ma basta che voi andiate a Salemi e vediate quello che era, ho davanti a me un cittadino di Salemi, quello che era prima di me, dopo di me. Intanto la parola, compresa la sua, e anche aver usato lui, averlo sfruttato, essere riusciti a non pagarlo perché solo denaro cerca e se n'è andato. Come solo denaro? Ma è un professionista come te. Cerca lui e se n'è andato solo perché non l'ha avuto. Ha inventato una mafia che non c'è più, perché chiedendo soldi, se tu chiedi soldi al comune di Asti o di Bruno Ripoli, chiedi 300.000 euro per fare un'iniziativa e non te li danno, pensi che sia il patto di Ma fatica. Quanti soldi voleva? Stare zitto, porco... Volete lasciare finire un ragionamento? Avete rotto il cazzo? No, ma aspetta, no, fermo! Ma è impazzito improvvisamente, quanti soldi voleva? Ogni parola, se uno che interrompe. Ma quanti soldi voleva? Quanti soldi voleva? Ma non importa quello, sto dicendo. Vabbè. E se... Perché il ragionamento deve essere finito almeno 40 secondi. Sì, no, sì, vai. Ma no, non è una mania. Imparate. Vabbè, allora. Sto dicendo che se Toscani chiede a Lucca 1 milione di euro, come ha chiesto, per fare una cosa con me, sulle mura, dentro le mura, e gli rispondono di no, a lui e al suo agente, è andato con me, lui prende atto che gli dicono di no. Vabbè. Se chiede 20.000 o 30.000 euro a Salemi e non ci sono, dice che c'è la mafia. Questa è la differenza. E se ne va come se fosse perseguitato dalla mafia. Questo è una falsificazione, perché inventare un crimine è un crimine. Allora, se tu combatti la mafia, sei un bravo combattente contro la mafia. Se inventi la mafia che non c'è per fare l'antimafia, sei uno stronzo. Ho capito. Questo è lui, e sono tutti quelli che si inventano la mafia che non c'è, che è una caratteristica. Però... L'ultimo, state zitti, l'ultimo arrestato, sindaco di Campobello, era un sindaco antimafia. Sì. Evidentemente dirsi antimafia è facile. Essere contro la mafia presuppone che ci sia la mafia. Ecco, perché avete rotto? Perché non gli davano soldi. Vabbè, normale. Sto dicendo però che le parole che lui, quando ha lavorato con me ed io abbiamo usato, hanno fatto arrivare il nome di Salemi in tutto il mondo. Sono usciti un'intera pagina di Le Monde, 2 pagine di Los Angeles Times, è uscito di tutto, quindi vuol dire che le parole servono. E lui cosa ha fatto tutta la vita? Ha fatto immagini o parole per comunicare le cose. Ma quindi in un certo senso sei grato. È ignorante come una capra, non sa quello che dice. Beh, ignorante. È stupido. Ma sei stupido perché l'avevi chiamato, scusa? Solo perché avete litigato? Ora... Oh. ma sai che sei un povero cretino. Ho chiamato Toscani per fargli fare la comunicazione che ha fatto benissimo. Ma se lo consideri uno stupido, scusa. Quando alla fine non gli ha dato i soldi, né Lombardo, né il comune che non ce li aveva, lui se n'è andato inventando che la mafia gli impediva di lavorare. Sto dicendo, però se non seguite i ragionamenti, cioè, se, no, ma questo l'abbiamo capito. Ma siete due poveretti. No, cioè, ma l'ho non capito. No, Vittorio, scusami, questo l'abbiamo capito benissimo. No, lui invece la lite nasce per quello, perché lui va intervistato, interrogato dalla DIA a raccontare che la mafia gli ha impedito di lavorare. Ora dico, se avesse fatto la stessa cosa al bagno a Ripoli o a Asti o in qualunque comune o a Lucca, come è capitato, e non avesse ottenuto quello che chiedeva, non avrebbe detto che la mafia gli aveva detto che non c'erano i soldi. Tutto qua. Insomma, non ha preso una lira, non ha preso un euro e se alla fine se n'è andato. L'unico motivo è quello. Io gli ho imposto di lavorare senza stipendio. Siamo stati assessore e sindaco senza stipendio. Quando lui ha chiesto per alcune campagne da farsi alla regione e anche per delle cose da fare a Salemi dei soldi, c'è davanti a me Grasso. Ti stessimo a di passo Grasso. Grasso, ma chi è Aldo Grasso? Che allora, chi è? Ha cercato di approfittare del comune. Ma chi è Aldo Grasso? No, chi è? Giorgio Grasso. Giorgio Grasso. Sono Giorgio Grasso, il vice sindaco. Ma lei che fa il vice sindaco, lei che è di Milano? Che cazzo c'entra con Salemi, lei, scusi? Salemi intanto è una capitale nazionale, e quindi uno può essere anche non di Salemi, perché l'importanza di Salemi è nazionale. Ma perché a Salemi c'è un sindaco come Sgarbi che è di Ferrara, e un vice sindaco di Milano come Giorgio Grasso? Perché? La prima capitale d'Italia, e i cittadini hanno scelto Sgarbi sindaco. Allora, voi siete abituati con questi governi dove ci sono persone nominate. Sgarbi è stato votato dal popolo. E bene, questo nessuno lo nega. Nessuno lo nega. Ha preso una marea di voti. Vabbè. E ha chiamato come vice sindaco Giorgio Grasso. Toscani ha cercato di approfittare. Vabbè, abbiamo capito. Di Salemi per ricevere milioni di euro dalla regione. Ma l'avete chiamato voi? L'avete chiamato voi? Si vede che ero per fargli fare il suo ruolo di comunicatore, non per farlo guadagnare. Va bene. Grasso, mi ripassi un attimo Sgarbi un secondo per una conclusione. Ciao, ciao Giorgio. Allora, un'ultima cosa, un'ultima cosa, chiarita questa cosa di Toscani. Venite a Salemi, Parenzo compreso, che è venuto. Sono già venuto, bellissimo. Il Museo del Paesaggio, il Museo d'Arte Sacra, il Museo della Mafia. Ma io sono convinto che tu fai delle cose grandissime. Ma il Museo della Mafia c'è, l'hai fatto poi, o l'hai solo annunciato? Vai a vedere, vai a studiare. Però una cosa, Vittorio, una cosa di attualità. Sapresti che è stato riportato e riprodotto anche alla Biennale di Venezia. Sì. Hanno fatto una biennale con 4.000 artisti, ottimo, in 40 sedi, e lui che non fa un cazzo. Un povero idiota, questo Toscani. Senti, non ha fatto nulla. Fotografie da voyeur. Adesso no, l'hai sempre difeso, l'hai voluto. Ordinate, mi hanno rotto i coglioni. Cioè, se mi hanno difeso anche te prima che ricoglionissi nella tua retorica. Una volta che eri simpatico, sei diventato uno che sta sempre a fare lo spiritoso. Ma che spiritoso? Provo a ragionare su temi. Ma che ragionare? È evidente che questo qui è uno che io ho trattato come un amico, l'ho portato con me, abbiamo fatto mille cose. Sì. Soltanto nel fatto che Salemi sia diventata il luogo di cui tutti hanno parlato, c'è la funzione che abbiamo avuto. Mica siamo andati lì per occuparci delle fogne, ma per far sapere cos'era Salemi. È venuto Napolitano, abbiamo fatto certo che non ci siamo occupati di una serie di cose pratiche che sono impossibili in qualunque comune. Certo. Non è che in comune allora in 30 Vittorio del mondo. Ti servono 3 milioni di euro, non ce li hai. Vittorio, 30 secondi, in 30 secondi una definizione alla Sgarbi della signora Camusso, cioè tra la Camusso e la Fornero, chi preferisci? Così la Fornero di gran lunga. La Fornero è una donna intelligente e si muove nella logica della realtà. La Camusso parla dei sogni e del fatto che uno, qualunque cosa faccia, siccome è un dipendente o un precario, ha dei diritti. Certo, se ha anche dei doveri, no? Se il problema dei diritti in Italia è un problema, è giusto, ma con la corrispondenza ai doveri che ti toccano. Grazie, grazie da Salerno, Vittorio Sgarbi. Un abbraccio, professore. A domani con la Zanzara 18:30. Bubù, dillo anche tu. Bubù. Oh, questo è il punto. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.